Zone rosse, zone gialle, zone verdi, zone arancioni, zone fucsia, tutte zone, un sacco di zone che non si capisce che zone so e soprattutto che significa appartenere a un tipo di zona piuttosto che a un tipo di un'altra. Tutti quanti i DCPM del nostro carissimo presidente Conte sono stati inglobati in questa maxi vademecum, dove praticamente alla fine si dà una reindirizzata generale a tutto quello che è la situazione per la gestione del contagio in Italia durante questa fase, e noi abbiamo capito che tutto questo è troppo complicato, non, insomma, alla fine anche andarlo a leggere sui giornali non è così facile, e allora abbiamo pensato di fare una puntata speciale di Everything questa sera, io e Michela con gli altri ragazzi di Runtime Radio, che si intitolerà Guida Galattica per DCPM, cioè, quindi cercheremo insomma di riassumere un po' tutto quello che è la situazione, cercare di capire come funziona, come non funziona, che è, che non è, e alla fine cercheremo insomma di riassumere anche in maniera allegra, brillante, cercando anche un po' di scherzarci insieme e sentendo anche gli altri ragazzi di, appunto, di Runtime. Quindi questa sera alle ore 21, massimo 21:15, quindi state occhio, state pronti con le vostre mail a ricevere ovviamente la notifica di diretta. Saremo in diretta con Everything, vi ricordo, Guida Galattica per DCPM. Io, Michela e tutti gli altri ragazzi cercheremo di semplificare questo mega DCPM, questa mega suddivisione in zone e tutto quanto, quello che si può fare, quello che non si può fare, ma soprattutto cercheremo anche di scherzarci sopra. A questa sera, mi raccomando, ore 21 su Runtime Radio, la radio geek.